Scusi, signora, per andare all'aeroporto, per favore? All'aeroporto? Esatto! Ah, deve prendere l'autobus. C'è un autobus? Certo! Ah, benissimo! Grazie, signora! Ma... Sì? Dov'è il stop per l'autobus? La fermata dell'autobus. Sì, la fermata dell'autobus. Grazie. Di niente. Sì, ma, scusi, dov'è la fermata dell'autobus? Ah, ho capito. Dov'è la fermata dell'autobus? Sì, signora. Lei va all'aeroporto? Sì, vado all'aeroporto. Mi dispiace, non lo so.